vetro, tu lì nel sonno, occhi tu chiedono, verdi stupendi ricordi, non te ne andrai senza di me. Senza rendermi ancora un bacio, ancora un bacio. Fuoco sul temporale, da me tu non puoi scappare, non così. Fuoco sul temporale, no che non mi puoi lasciare, non così, non così. Silenzio cerca conforto, bimba dimentica, domani sarà diverso, non te ne andrai senza di me. Non senza rendermi ancora un bacio, ancora un bacio. Fuoco sul temporale, da me tu non puoi scappare.